Che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi hanno allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso, e son restato, e son restato. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà. Scopriremo solo vivendo. Chissà chi sei. Chissà chi sei. Chissà che sarà. Che sarà. Che sarà di noi. Lo scopriremo solo vivendo. Che sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo.